Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Iniziamo dalla borsa, come alcuni di voi già sanno, di nuovo oggi positive le borse, con una differenza rispetto a ieri, ossia Milano non è quella che recupera di più, anche se è tornata sulla soglia anche psicologica dei 19.000 punti, più 1,50%, Parigi è la migliore, più 3%, Francoforte più 1,90 e poi Londra più 2,14%, il Dow Jones guadagna lo 0,80% in questo momento. Dicevo, giornata di nuovo di recuperi o ricoperture, come le vogliamo chiamare. Le parole del presidente della BCE Mario Draghi le abbiamo commentate ampiamente ieri. Oggi, se vogliamo trovare uno spunto per questi rialzi, oltre alle parole di Draghi di ieri, c'è un petrolio che è risalito anche in maniera significativa, sempre intorno ai 30 dollari al barile, a 31,5, però un rialzo di quasi il 7%. Non è un caso, infatti, che oggi vadano bene i titoli petroliferi anche a Piazza Affari, più 3,11% Eni, cito su tutti, e bene anche i titoli del lusso, Ferragamo più 3,30, Yux Net a Porter più 3,40%, Tod's più 4,80%. Tra i migliori non troviamo però le banche in recupero dopo i tonfi delle ultime sedute, ma il risparmio gestito, Anima Holding più 6,20%, Mediolanum più 5,34% in questo momento. Tra i bancari segnalo anche un rialzo della Popolare di Milano dell'1%, d'Intesa dello 0,90%, ma il Monte dei Paschi perde di nuovo, torna a perdere il 6,70% in questo momento e scende di nuovo sotto i 70 centesimi di euro per azione a 68 centesimi. UbiBanca perde il 3,80, Popolare Emilia Romagna 2,5, Banco Popolare meno 1,30 e UniCredit meno 0,70. Il peggior titolo però resta Saipem. Ieri è arrivato poi l'annuncio del prezzo per l'aumento di capitale, le azioni ha sostanzialmente, per quello che riguarda Saipem, avranno un maxi sconto del 37%, sostanzialmente uno sconto del 37% del prezzo teorico. Il titolo sta perdendo 10,2% a 4,74 euro. Il rapporto di assegnazione sarà di 22 nuove azioni per ogni titolo in portafoglio, ne parleremo. Tra l'altro il Monte dei Paschi oggi ha avuto una giornata assolutamente altalenante, perché era partito molto forte, c'è l'intervista rilasciata solo 24 ore dal presidente della banca Tononi, e guadagnava oltre 9%, poi ha rigirato come vediamo e si avvia a chiudere sui minimi della seduta. L'euro su dollaro a quota 1,08 e 28. Parleremo oggi di banche, ma nel senso che da questo punto di vista c'è tutto il tema in completa evoluzione della cosiddetta bad bank italiana. Martedì vi sarà, o delle bad bank, perché in realtà non si tratterà di un'unica banca in cui far confluire tutte le sofferenze, ma di diverse banche a seconda dei vari gruppi bancari. Però il punto è un altro, che martedì prossimo vi sarà l'incontro tra il ministro dell'economia italiano Padoan e il commissario europeo che ha la delega su questo, e quindi il commissario della concorrenza Margrethe Vestager a Bruxelles. Non c'è un'agenda, ma sembra abbastanza ovvio che i due parlino della bad bank. Il ministro ha detto che la prossima settimana arriveranno nuove misure per rendere più facile le cessioni dei crediti bancari. Lo stesso ministro ha ricordato che sarebbe stato meglio farla prima questa bad bank, ma la decisione aspettava i governi precedenti. E su questo devo dire che non ha tutti i torti il governo Renzi, nel senso che, come abbiamo raccontato decine di volte, gli altri paesi si sono mossi prima e hanno approfittato di regole che adesso non ci sono più, o meglio non c'erano ancora le regole di oggi, e quindi non c'era il bail-in, ma non c'erano neanche le regole più stringenti arrivate l'anno scorso e che hanno portato poi a quella specie di salvataggio sulle quattro banche ormai celebri. E da questo punto di vista è vero che bisognava pensarci un po' prima, quando c'era una diversa finestra di opportunità. Ancora, e ne parleremo, abbiamo sempre il ministro ha anche aggiunto una cosa importante, che ha detto: abbiamo forse sottostimato gli equivoci che ha creato l'invio del questionario della Banca Centrale Europea, nel senso che, anche qui ripercorro, il Sole 24 Ore aveva chiarito fin da subito che non era un questionario rivolto alle banche italiane, ma era un questionario rivolto a tutte le banche che vengono vigilate dalla Banca Centrale Europea. Però l'equivoco della famosa lettera inviata da Draghi ha fatto precipitare ulteriormente i titoli delle banche in borsa, lo sostiene anche oggi il ministro Padoan, che dice: abbiamo evidentemente sottostimato l'impatto e che cosa viene letto dal mercato quando un'istituzione non mette pienamente in conto le implicazioni di un'interpretazione alla lettera di semplici istruzioni alle banche. Questi temi, dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Chiaramente partiremo con la nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione e vi dico già che tratteremo anche noi il tema oggetto del Consiglio dei Ministri di due giorni fa, assenteismo, fannulloni, ma anche, come sempre, avremo il caso virtuoso di chi in questi anni di difficoltà e di crisi si è rimboccato le maniche e ha messo in piedi una nuova attività. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Leggo adesso un flash d'agenzia che si riferisce alla Consob, la quale comunica che ha avviato da giorni accertamenti. La Consob è l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha avviato da giorni accertamenti per ricostruire l'operatività in borsa sul Monte dei Paschi e sugli altri titoli del settore bancario. Dalla Consob sono partite richieste agli operatori italiani ed esteri, quelli più attivi sul titolo Monte dei Paschi e sugli altri titoli, ed è stata avviata la cooperazione internazionale con altre autorità di mercato. La Consob vuole accertare se ci sono stati abusi di mercato. Le parole di Draghi, quelle che pesano, lo dico a chi sta chiedendo, sono quelle di ieri. Però lui è intervenuto anche oggi da Davos e quindi a margine del Forum Economico Mondiale ha fatto diverse dichiarazioni e ha detto sostanzialmente: vabbè, dall'emergenza dei profughi rappresenterà per i prossimi anni una sfida enorme, ma anche un'opportunità, e richiederà il più grande progetto di investimenti pubblici che ci sia mai stato in Europa per molti anni. Che la divergenza tra Banca Centrale Europea e Federal Reserve, Banca Centrale Americana, ed è tutto naturale quanto a divergenza sui tassi, cioè la Fed ha iniziato, seppur molto lentamente e cautamente, a rialzarli. La Banca Centrale Europea ieri ha chiarito che resteranno bassi per lungo tempo, visto che l'inflazione è ancora troppo bassa e restano i dubbi, sono aumentati i dubbi sulla tenuta della crescita. E oggi l'ha ribadito Draghi da Davos, ha detto: le prospettive sull'inflazione sono meno rose, pesano il greggio e le economie emergenti, cioè il prezzo del petrolio basso e il rallentamento delle economie emergenti. E poi anche lui ha detto: in Italia c'è stata un'errata interpretazione della lettera che abbiamo inviato su come i paesi stanno gestendo i crediti in sofferenza. Non vi era nulla di più che conoscere le diverse pratiche nazionali in merito, cioè volevano semplicemente conoscere. Certo, il tempismo di quella lettera non è stato il massimo, possiamo dirlo. Noi elogiamo sempre Mario Draghi, non perché ci piaccia solo il suo inglese, ma perché a nostro avviso ha salvato l'euro in un momento critico. Va detto che forse quella lettera, nel momento in cui erano sotto attacco le banche italiane da chiari elementi speculativi oltre che ragionamenti di mercato, perché non era cambiato nulla rispetto a qualche settimana prima. Ecco, sapere che poi Draghi ha mandato una lettera per sapere come le banche italiane stanno gestendo i crediti in sofferenza era sembrato un allarme pazzesco, invece poi si è scoperto che la lettera l'aveva mandata a tutti i paesi. Ho capito, insomma, la prossima volta chiaritelo subito, dai. Ancora, oggi la piccola Danimarca ha dato uno schiaffo alla potente Germania. Deutsche Bank infatti viene superata come Deutsche Bank è la più grande banca tedesca, che ha chiuso un 2015 disastroso con 6 miliardi e 700 milioni di euro di perdite, ma è stata superata per capitalizzazione di mercato anche dalla piccola Danske Bank, 23,8 miliardi contro 23,6 miliardi di Deutsche Bank. Pensate che solo 3 anni fa Deutsche Bank valeva più del doppio rispetto a Danske Bank. Mi chiedete se parleremo anche delle ipotesi sulla Bad Bank. Certo che ne parleremo. Da quello che abbiamo capito, l'ipotesi iniziale è stata abbandonata, si punta più a un piano di cartolarizzazioni e garanzie statali, come abbiamo chiarito ieri. Ogni banca dovrebbe creare non una sua bad bank in senso stretto, ma una società veicolo in cui dovrebbero confluire i crediti deteriorati. Per finanziarsi, questa società andrà sul mercato emettendo obbligazioni di varia natura, sia senior che junior. Le banche potranno chiedere per le obbligazioni senior una garanzia pubblica attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. In questo modo potranno offrire, visto che c'è una garanzia pubblica, tassi di interesse più bassi. L'elemento di trattativa con Bruxelles riguarda proprio questa garanzia, perché non rientri negli aiuti di Stato, e quindi il prezzo a cui deve essere concessa questa garanzia, e quindi indirettamente anche il prezzo dei non performing loans, no? Di questi crediti inesigibili. Allora, altre domande cercheremo di risolvere, o meno di rispondere a queste domande nel corso del programma. Il ministro Padoan, mi chiedete se ha parlato delle banche italiane. Sì, ha parlato delle banche italiane e ha detto che non c'è nessuna fragilità per le banche italiane. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, in vista del faccia a faccia venerdì prossimo a Berlino con la cancelliera Angela Merkel, ha così definito i rapporti tra Germania e Italia, chiarendo che tutti e due abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Non tocca a me valutare e decidere chi deve essere a servizio dell'Unione Europea. Le dico questo: con la Merkel il rapporto è buono. La Germania ha bisogno dell'Italia. L'Italia ha bisogno della Germania. La Germania ha bisogno dell'Italia, in particolar modo in questo momento in cui, se si blocca l'export tedesco verso la Cina, o comunque se rallenta, le grandi aziende tedesche hanno tutto l'interesse che un paese grande come l'Italia si rimetta in moto. Se ripartono i consumi in Italia è un fatto positivo anche per la Germania. In alcuni casi mi verrebbe da dire, visti i numeri europei, soprattutto per la Germania, perché il nostro import-export con la Germania è molto alto. Quindi la Germania ha voglia che l'Italia riparta, è nell'interesse della Germania che l'Italia riparta. Credo che la Merkel sia la prima a capire che lei ha bisogno di un'Italia forte, non, come vorrebbe invece qualcun altro, di un'Italia che sta a rimorchio. E poi un'ultima notizia di cui mi chiedete un commento. Commenti sono positivi, mi riferisco chiaramente all'annuncio che Apple, il colosso di Cupertino, vuole aprire il suo primo centro di sviluppo app d'Europa a Napoli, e oggi c'è stato un incontro, una tazza di caffè, al di là delle agenzie un po' geografiche, una tazzarella di caffè bevuta in piedi tra gli stucchi di Palazzo Chigi. Chi se ne frega, il punto è che si sono incontrati il premier Matteo Renzi e Tim Cook e hanno firmato l'accordo che farà sbarcare Apple a Napoli con un centro di sviluppo che dovrebbe creare circa 600 posti di lavoro. Hanno anche pranzato assieme, le agenzie dettagliano anche il tipo di pranzo: pasta al pomodoro, Cook ha regalato a Renzi un vaso di design italiano, scusatemi, sì, è stato regalato a Cook una macchina per il caffè, la classica Moka, immagino in vista appunto dello sbarco a Napoli, così la capisco io. E poi la dichiarazione del Premier, che ha detto è assolutamente fondamentale che la grande parità di Napoli del sud esca dai confini del pessimismo, l'intesa con Napoli dimostra che c'è una grande occasione per il sud. Per me è fondamentale, è assolutamente fondamentale che la grande partita di Napoli e della Campania, più in generale del sud, esca dai confini del pessimismo, vittimismo, lamentazione, rassegnazione. Ci sono dei grandissimi partner globali, ho detto Cisco perché anche Cisco farà cose a Scampia, da Vimercate a Scampia Cisco sta investendo in Italia, ma ho detto Apple particolarmente perché durante un incontro fatto a novembre con Tim Cook, tra l'altro un incontro importante, abbiamo non soltanto discusso del futuro dell'innovazione, della responsabilità sociale di grandi imprese come Apple, abbiamo discusso di come portare una realtà come Apple a investire nella creatività, nel talento, nell'Italia. E la scelta di andare su Napoli va esattamente in questa direzione. Il nostro mezzogiorno, anche il nostro nord, sia chiaro, ma il nostro mezzogiorno è ricco di occasioni di crescita, di benessere, di sviluppo. Bisogna smettere di piangersi addosso. E su questo, su una notizia positiva per l'Italia e per il Sud, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Tre nomi: Apple, Cisco e Amazon, tre aziende globali che fatturano miliardi di dollari, che operano in settori avanzati e hanno un'altra cosa in comune. Tutte e tre queste multinazionali si preparano a fare investimenti in Italia. Lo farà Apple, che aprirà nell'area di Napoli, probabilmente a Bagnoli, il primo centro europeo per lo sviluppo delle app, un centro che servirà per formare, preparare i futuri sviluppatori delle applicazioni in ambiente iOS, il sistema operativo di Apple. L'obiettivo è di creare 600 posti di lavoro, ma c'è soprattutto l'idea di offrire un'opportunità in un settore avanzato a un'area in cerca di una nuova identità. Poi c'è Cisco, azienda leader nell'IT, che investirà 100 milioni di dollari in tre anni per il sostegno delle startup innovative in Italia. Infine c'è Amazon, che proprio oggi ha confermato l'intenzione di potenziare la propria presenza nel nostro paese. Sono tre casi diversi tra loro, ma importanti, che pongono al centro quei processi di innovazione di cui il nostro paese ha bisogno e che trasmettono anche un segnale positivo in un paese come il nostro, che a lungo è rimasto fuori dai circuiti virtuosi degli investimenti delle aziende globali. Certo, serve e servirà molto di più per rendere il contesto italiano ancor più competitivo in termini di regole, di fisco, di burocrazia, ma la scelta delle tre multinazionali è in qualche modo la prova che il nostro paese ha le carte in regola per recuperare attrattività sugli investimenti esteri. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, partiamo con la classifica della settimana. Devo dire che raramente ho visto in borsa quello che sto guardando in questi minuti. Abbiamo iniziato il programma con Monte dei Paschi, che dopo aver guadagnato oltre il 9% perdeva il 6,7%. Sono passati 15 minuti, il titolo adesso guadagna di nuovo. Non c'entra niente con la classifica chiaramente, ma guadagna di nuovo. Ho difficoltà anche a seguirlo sul terminale. Dio mio, allora il 2,60%, io non so, tutto è possibile nella vita, però se la Consob non si occupa di questo, cioè come fa un titolo a fare più 9, meno 7, più 2 nell'arco di mezz'ora in 40 minuti, se non spiegando la cosa con qualcuno che sta facendo il furbo o meglio ci sta guadagnando a man bassa. Chiedo perché voglio, non è più un mercato questo, è una roulette, ammesso che, vabbè, meglio che stia zitto, però dico, il Monte dei Paschi adesso sì è in rialzo del 2,33%, vabbè. Allora, l'altra nota prima di partire con la classifica, visto che già la classifica crea nel sottoscritto e anche in chi l'ascolta un po' di depressione, abbiate pazienza. Il presidente del Consiglio Renzi, lo facciamo ascoltare e si mette il cuore in pace chi lo critica, non lo sopporta, perché il presidente del Consiglio, lo dico per l'ultima volta, come abbiamo fatto ascoltare tutti i presidenti del Consiglio, Prodi, Berlusconi, anzi Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, è il presidente del Consiglio che parla, ok? Poi se uno ce l'ha così, diciamo, in viso, va bene, è la democrazia, bellezza, ma non è che puoi dire no, no, perché fai ascoltare Renzi? Non è che faccio ascoltare quello che passa per strada, facciamo ascoltare il Presidente del Consiglio su temi che riguardano questo paese, ma siamo tutti impazziti? Io capisco la versione politica, ma cerchiamo anche di portare ogni tanto, di collegare tutti i neuroni quando fate certi commenti. Uno, due, se c'è una buona notizia su Apple che va a investire il primo centro europeo per le app a Napoli, ma perché bisogna buttare giù anche quella? Poi viene voglia di dare ragione a Renzi quando parla di Goofy, noi abbiamo il copyright su questo, ok? È una buona notizia e prendiamo una buona notizia, no? Cioè, ogni volta sempre, no? A tirarsi delle tafazzate. Allora, tanto adesso tutti quelli che dicono che va tutto male avranno modo per godere come dei ricci, perché iniziamo con la classifica. E al quinto posto, mentre Monte dei Paschi adesso guadagna il 2,80%, vabbè, ce li giochiamo sti numeri fra un po'. Al quinto posto troviamo un bellissimo comune, si chiama Ogliastro, è nel Cilento. È un bellissimo comune perché il sindaco Michele Apolito ha deciso che la frontiera per sviluppare l'economia di questo paese, che ha 2000 residenti, è lo sviluppo del turismo religioso, e fin qua tutto bene. Peccato che abbia messo in piedi un progetto per costruire, pensate un po', la 59esima statua più alta del mondo, ed è un mirabolante monumento a Padre Pio, alto 85 metri, dal costo di 150 milioni di euro. Voi dite, vabbè, ma se, a parte il fatto che, per carità, auguri con l'impatto ambientale, ma se questa statua di 85 metri dal costo di 150 milioni di euro porta al turismo, il sindaco sta investendo sul futuro. Sì, peccato che, come lamentano i residenti di Ogliastro, la statua dovrebbe stare essere collocata tra il comune di Ogliastro e il comune di Prignano. I residenti di Ogliastro lamentano un dettaglio, dicono, va bene il fatto che tu voglia puntare sul turismo religioso, ma come li accogliamo questi turisti religiosi, visto che manca l'acqua ed è razionata l'acqua a Ogliastro, e manca c'è un serbatoio in cui i cittadini possono resistere 48 ore, non hanno a disposizione un acquedotto funzionante, c'è una viabilità dissestata perché l'unica arteria, la statale 18, è un colabrodo, e quindi non si comprende come arriverebbero intanto questi turisti. Poi non so, vanno avanti a Coca-Cola, a Fanta, l'acqua niente, la doccia alternata. Ma guarda che la cosa è pazzesca, perché purtroppo, allora, tutto nasce dall'idea di uno stanziamento anche interessante, perché c'era un cittadino originario di Ogliastro che aveva deciso di, dopo una guarigione da un male apparentemente incurabile, che a suo avviso sarebbe avvenuta grazie appunto al miracolo del santo di Pietralcina, di portare questo progetto. Allora, per ora hanno fatto il plastico, che è costato 8.000 euro. Gli 8.000 euro li ha messi questo pasticcere campano torinese d'adozione che ha spinto per la costruzione della statua. Ora, intanto il comune, non sto scherzando, ha già stanziato ad oggi 2.000 euro, dici, per farci che cosa? Beh, per regolare l'afflusso di eventuali visitatori che volessero recarsi nella sala del Consiglio Comunale per ammirare il modello in scala della statua di Padre Pio, cioè gli 8.000 euro di plastico. Ora, io capisco tutto, però sono 2.000 abitanti, cioè un plastico di 8.000 euro, ne spendi 2.000 per regolare il flusso. Ma cosa vuol dire regolare il flusso? Ci sarà, è la sala del comune, ci sarà un usciere, ci sarà una guardiola, un vigile davanti, ma 2.000 euro, ma poi un flusso di visitatori che arrivano da dove per vedere il plastico? Comunque, non si capisce dove verranno reperiti questi 150 milioni di euro. Una parte dovrebbe arrivare da fondi pubblici e la fetta restante dovrebbe essere ottenuta grazie ai privati, ai devoti, ai volenterosi e alle associazioni benefiche. Solo il progetto di statua da 85 metri di Padre Pio costerebbe 15 milioni di euro. Solo il progetto, cioè il 10% del totale. Poi bisognerebbe sbancare un'intera collina e appunto costruirlo in mezzo ai due paesi. Ora, io capisco tutto, ma siccome la città di Ogliastro attende dal 1994, oltre che l'acquedotto e una strada decente, anche la piscina, ok? La piscina, la giunta l'aveva annunciata olimpionica. Di olimpionico c'è solo il ritardo per ora, nel senso che non l'hanno ancora costruita. Poi il progetto dell'olimpionica l'avevano fatto scendere a tre corsie, mo ne resterà una sola di corsia, per ora non c'è nulla della piscina. Allora io dico, caro sindaco Michele Apolito, ma prima di pensare alla statua di Padre Pio da 85 metri, 150 milioni che manca a Rio de Janeiro, no, ma sistemate l'acqua, abbiate un acquedotto nel 2015, nel 2016, scusatemi, date una piscina ai residenti e poi vediamo se fa sta statua, a meno che la statua di Padre Pio non sia funzionale al miracolo che dovrebbe fare, ossia ottenere nel comune di Ogliastro una gestione normale. Le altre quattro della classifica dopo il meteo. Focus economia. Allora, andiamo al quarto posto per quello che riguarda la nostra poco invidiabile classifica e andiamo sostanzialmente a Pompei. Anche qui le priorità, vabbè, quella della statua di Padre Pio si commenta da sola, ma insomma, lunedì 18 gennaio al comune di Pompei si è tenuta una riunione straordinaria per discutere sul programmato hub ferroviario, quindi il grande snodo ferroviario da 35 milioni di euro, che grazie all'alta velocità dovrebbe portare i turisti direttamente da Roma a Pompei in un'ora e mezzo. La battuta è che risparmiano mezz'ora, ma tanto poi è chiusa. No, non è così. Però Pompei ha avuto anche un aumento di visitatori. Però diciamo 35 milioni per l'hub ferroviario. Hanno preso parte anche il sindaco Ferdinando Uliano e una rappresentanza della giunta. Ora, la battaglia al progetto, insomma, immaginiamo che ci possa essere, perché diventerebbe una dependance, diciamo, della tratta romana. A fianco del sindaco Uliano si erano schierati anche la città metropolitana, con le dichiarazioni del vice di Luigi De Magistris e una coccia, dicendo: invece di sprecare 35 milioni di euro per unire l'alta velocità Roma a Pompei, incentivando in tal modo ancora di più il turismo mordi e fuggi, sarebbe molto meglio potenziare un collegamento che già esiste con l'ex circumvesuviana. Allora, uno dice, va bene, perfetto, può essere anche giusto questo, nel senso che andiamo su altre priorità. Ma com'è intanto la circumvesuviana a Pompei? Allora, ogni anno la percorrono 2 milioni di turisti, la maggior parte stranieri. C'è un soffitto che cade a pezzi sui passeggeri, nessuna struttura per i disabili, banchine pericolose e insicure e una scala da cui passano a malapena 2 persone per volta. La fermata Villa dei Misteri si trova proprio di fronte all'entrata più grande dell'area archeologica, quella di Porta Marina. Quindi uno dice, se è un tale schifo in questo momento la fermata della Circum a Pompei, ho capito opporsi, ma inizia a stanziare i soldi per migliorarla. Parliamo di soffitto che cade a pezzi, di strutture per i disabili, non c'è una spesa enorme. Invece no, ti opponi al progetto, all'hub ferroviario, e così tu ti opponi, non sistemi la fermata e il turista che arriva pensa di essere ancora nella Pompei di 2000 anni fa, nel senso che è ridotta uno schifo. L'assessore alla cultura di Torre Annunziata, Antonio Irlando, dice: potremmo pensare a un'altra soluzione. Nella zona vesuviana c'è già una stazione con 9 binari che con piccole modifiche potrebbe ospitare l'alta velocità, e quella di Torre Annunziata, oggi inutilizzata, dista 2 km dagli scavi, potrebbero essere raggiunti dai turisti a bordo di un trino d'epoca in 5 minuti. questa potrebbe essere una soluzione che mette tutti d'accordo, anche perché adattare alla stazione di Torre Annunziata costerebbe molto molto meno dei 35 milioni, e questo ha un senso. Posso dare un consiglio però? Nel frattempo, mentre discutete se è meglio l'hub ferroviario da 35 milioni o meglio rimettere a posto la stazione di Torre Annunziata con un costo più basso e fare il trenino storico dei 2 chilometri, potete dare una mano di bianco all'attuale stazione, alla fermata Villa dei Misteri? Lo chiedo. Cioè, anche perché è l'unico modo per raggiungere gli scavi, diciamo, se non vuoi usare i bus turistici e il tutto compreso. Mentre parlate, fate! Terzo posto, andiamo a Torino e alla sanità piemontese. Allora, qui c'è un caso, c'è un piano di rientro regionale della sanità piemontese che ha ridotto il personale e i fondi e ha generato una diminuzione degli interventi sanitari e l'allungamento delle liste d'attesa, con la conseguenza che o attendi il tuo turno, adesso racconterò dei casi eclatanti su quanto si deve attendere, o vai nel privato, oppure vai o scegli la cosiddetta mobilità passiva, cioè vai in altre regioni a farti curare. Mobilità passiva che è costata alla regione Piemonte nel 2014 60 milioni di euro versati ad altre regioni che hanno erogato i servizi sanitari ai cittadini piemontesi. Perché vanno in altre regioni o, se possono, se ce la fanno economicamente, vanno nel privato? Beh, due storie che obiettivamente non si capisce come si possa fare. Allora, Maria, la mamma di un bambino, a novembre si rivolge alla pediatria perché il figlio aveva problemi di stanchezza. Il medico nota una carenza di ferro e ritiene opportuno prescrivere degli esami più approfonditi. Gli esami vengono fatti il 7 dicembre alla ASL. La signora Maria, no, si chiama veramente Maria, va il 23 dicembre per ritirarli, non ci sono. Le chiedono di tornare e dice: vabbè, ci sono le feste di mezzo, tornerò dopo l'Epifania. Per cui continua ad andare e aspetta fino all'Epifania. Passa l'Epifania e i risultati ancora non ci sono. Chiede spiegazioni. Il personale ha cercato in tutte le maniere di capire come mai questo ritardo, cioè è stato bravo il personale della ASE, e si ha scoperto che c'era un fax ricevuto dalle Molinette, l'ospedale di Torino, dove avevano inviato il campione di sangue per le analisi, dicendo: guardate che le analisi di suo figlio non solo non sono pronte, ma non si sa nemmeno quando potranno arrivare per mancanza di reagenti, che è quello che ti serve quando fai analisi, un reagente. Cioè, i laboratori che devono eseguire l'esame risultano sprovvisti dei reagenti. Dettaglio, no? Come un laboratorio che fa i prelievi che fosse sprovvisto di siringhe o di provette. E devi, per capire appunto se c'è veramente una carenza di ferro. La signora dice: ma come, non avete i reagenti, non sapete quando mio figlio avrà un responso alle analisi del sangue, cavolo, del sangue fatte il 7 dicembre? Nel frattempo però ho già pagato il ticket da 58 euro, e quando mai? Un altro paziente, Sandro, è in cura all'urologia delle Molinette, ha un problema alla prostata, un ingrossamento benigno, fa gli esami nel febbraio 2015 e si scopre la necessità di intervenire col laser, ma senza fretta. Mi rimandano a prima dell'estate, ma non vengo contattato, racconta lui. Allora lui chiama a settembre e dicono: no, devi attendere ancora almeno fino a fine anno. Vabbè, meno male che era benigno. Il tempo passa, lui peggiora, torna in ospedale e gli dicono che l'intervento è sì, va fatto, a questo punto va fatto anche abbastanza urgentemente, ma ha 80 persone davanti e riescono a farne 5 al mese. Quindi, a conti fatti, il suo turno arriverà nel maggio del 2017. Si rivolge anche all'ospedale di San Luigi di Orbassano, c'è un anno di attesa. Certo, poi, se vuoi fare privatamente, tutto è molto più veloce. Traffico, e poi le ultime due. Focus Economia. Allora, le ultime due, andiamo rapidi perché ci metto poco. Abbiamo un secondo posto che è un ex aequo. Ossia, da un lato, e qui copriamo veramente tutta l'Italia, dalle Alpi a Lampedusa. Allora, l'ex aequo è, da un lato, la regione Sicilia, anzi, in questo caso è la città di Palermo, e dall'altro, però, la regione Lombardia. Vedete un po' come siamo equanimi. Allora, a Palermo, l'AMAT, l'azienda municipalizzata autotrasporti, riesce a spendere per manutenzione di 28 autobus su 400 autobus più di quanto gli costerebbe comprarne di nuovi, e qui proprio siamo ai, ma è da Nobel dell'economia, 5 milioni di euro per mantenere per la manutenzione di 28 autobus su 400. Lo denuncia il consigliere comunale del PD Nadia Spallitta, che dice: ma come cavolo fa un'azienda che esternalizza tutto a spendere 5 milioni per fare la manutenzione di 28 autobus? Pensate che l'AMAT è una grande fabbrica di appalti e incarichi esterni, 96 in un solo anno per importi non ancora stimati. È praticamente un'azienda che ha una gestione quasi privatistica, anche se poi, allora, privatizza le gestioni esterne, le consulenze, gli incarichi esterni, rende invece pubblica, ossia a carico dei cittadini, i costi, perché becca anche i soldi delle tariffe della ZTL. Allora, dicevo, ammonta a 10 milioni di euro il costo di tutti i servizi che l'AMAT riesce a esternalizzare. Non c'è abbastanza persone, evidentemente. Si scopre che poi 150 mezzi hanno tra i 18 e i 24 anni, viaggiano ancora Euro 1, Euro 2, se lo sanno la Volkswagen, vanno fuori di testa. 12 autobus hanno più di 24 anni, sono Euro 0. Non lo so capire, c'è qualche calesse, qualcuno che va a carbone ancora, non lo so, Euro 0. Praticamente la metà del parco mezzi dell'AMAT a Palermo andrebbe rottamata e sarebbe più economico e anche più ecologico acquistarne di nuovi, ma no, la manutenzione invece ti dà altre possibilità. Secondo posto, diceva, ex aequo con la Regione Lombardia, perché la Regione Lombardia si sta affrettando a fare quello che hanno già fatto altre regioni e invece lei no, e adesso pensa di correre ai ripari perché pende il rischio, una norma transitoria contenuta nel testo della riforma costituzionale, insomma c'è il rischio che i collaboratori degli assistenti, i collaboratori dei consiglieri regionali non possono essere confermati, quindi 195 contratti di lavoro a tempo determinato che costano 4.600.000 euro all'anno di assistenti, collaboratori e consiglieri non vengono confermati. Quindi che cosa sta facendo la Regione Lombardia? Il Pirellone, beh, vuole stabilizzarli per intero. Voi pensate, l'unico gruppo contrario, va detto, è il Movimento 5 Stelle, che pure percepisce i sussidi per pagare i 22 collaboratori. Allora, il PD Lombardo prende in Regione 1.032.000 euro per i collaboratori, poi segue la Lega Nord 860.000 euro per 33 collaboratori. Quelli del PD sono 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 1 occasionale e 25 assunzioni a termine. Poi ce ne sono 33 appunto per la Lega, poi 22 per i 5 Stelle e poi si scende al 500.000 per i 30 collaboratori di Forza Italia, il gruppo Maroni presidente 32 collaboratori 600.000 euro, Patto Civico Ambrosoli 11 collaboratori 300.000 euro. E qui mi fermo. Ma adesso è il momento del primo posto e visto che abbiamo fatto Palermo e abbiamo fatto anche Milano, per restare nel mezzo occupiamoci il tema dell'assenteismo molto dibattuto, qui le norme ci sono già, non è vero, si criminalizza pubblico impiego. Abbiamo spiegato miliardi di volte che il pubblico impiego va premiato, che ci sono medici che ormai lo fanno per motivi di che lo fanno quasi per volontà e per passione più che per lo stipendio, che i parasubordinati negli ospedali andrebbero premiati, insomma tutto quello che volete. Poi però se raccontiamo di casi di cattiva gestione non ce l'abbiamo con tutto il pubblico impiego, vogliamo che i meritevoli vadano avanti e quegli altri vengano cacciati, a partire dai dirigenti. Allora cerchiamo di capire se sul tema dell'assenteismo, prendiamo il Comune di Roma, vi sia veramente un accanimento terapeutico contro i dipendenti comunali di Roma. And the winner is... The winner is Stakhanov, che non è mai stato a visitare il Campidoglio. Perché? Allora, il Comune di Roma ha 24.000 dipendenti, va bene? Siccome esistono delle statistiche per sapere qual è il tasso di assenteismo e di presenza, confrontandolo con altri settori, perché c'è l'indice di assenza che ogni anno raccoglie Confindustria per le imprese e l'ABI per le banche, e quindi qua... qual è il tasso di assenteismo? Allora, in entrambi i casi, cioè sia che tu vada ad analizzare un'impresa manifatturiera o una banca, il limite, diciamo, fisiologico del tasso di assenza, che chiaramente è calcolato al netto delle ferie, è del 7,5%. Addirittura un'impresa media italiana ce l'ha del 6%. Ora, voi direte, quanto sarà quello del Comune di Roma, visto che il 6% è in media delle imprese italiane, il tasso di assenteismo? Al Dipartimento Risorse Umane è il 36%, Tra l'altro il 12,7 era assente per motivi non ben specificati, il 7,5 per malattia. Al municipio complessivo le assenze salgono all'8%, le assenze dovute ad altri motivi. All'interno del settimo gruppo del Tuscolano le assenze per motivi vari superano il 6%. Poi ci sono dipartimenti dove c'è un problema di salute, nel senso che del Dipartimento Politiche Abitative il 10% dei 70 dipendenti è stato assente per malattia. Poi abbiamo l'antica prassi che prevede ad agosto la città chiusa per ferie. Nel trimestre giugno-settembre 2015 il tasso di assenza presso i municipi romani ha raggiunto la media del 40%, con picchi negativi del 43%. Vuol dire che praticamente è come se 5.000 su 11.000 dipendenti dei municipi fossero rimasti a casa. Il tasso di assenza per malattia nel quarto municipio ha raggiunto il 21% nei primi tre mesi del 2015 e un altro 11,7% è stato assente per altri motivi. Anche al sesto municipio un tasso di malattia ha toccato il 22%. Verrebbe voglia di dire: ma visto che ci si ammala così tanto nel comune di Roma, andate a lavorare in fabbrica dove tutti sono così sani e hanno un tasso di assenteismo inesistente. Tutti in fabbrica, in fonderia, che lì ci si ammala pochissimo. Complimenti ai dipendenti del comune di Roma. Allora, dottor Luca Rossettini, amministratore delegato e fondatore di D-Orbit, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Che cosa fa D-Orbit? Un minuto, poi la riprendo. E quando siete nati e dove? D-Orbit produce sistemi intelligenti, dei motori intelligenti da installare sui satelliti prima che vengano mandati in orbita e capaci di rimuoverli a fine vita, quindi quando i satelliti non servono più, in modo rapido, controllato e sicuro. L'azienda è nata nel 2011. Però... in Italia e oggi siamo una trentina di persone. Cioè voi per questi apparecchiature permettono di questi motori di riportare sulla Terra i satelliti quando hanno finito il loro lavoro? Sì, diciamo che invece di lasciarli nello spazio come immondizia, quindi a creare enormi problemi non solo per chi oggi è nello spazio ma anche sulla Terra, noi lo rimuoviamo in modo sicuro, quindi o riportandoli verso Terra o parcheggiandoli in un'orbita cosiddetta cimitero, in modo che in futuro si possano magari anche riciclare direttamente. Ecco, allora, dopo ci racconta bene come siete nati, che vi è finanziato, vi do un'idea per il futuro, un motore che porti invece nello spazio chi non vuole più lavorare sulla Terra, dopo quello che abbiamo letto, sarebbe ugualmente utile, cioè chi non ha mai iniziato a lavorare, accompagnarlo al posto del satellite. Comunque ne parliamo dopo il GR24. Sauna da Cirra a Cocoruno, basteranno un minuto, dimmi l'aereo, ma non vanno pure a Cirra, il problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Focus Economia. 18 e 7 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Marisoni. Volevo concludere l'approfondimento con il caso virtuoso che portiamo dopo la carrellata del top 5 della classifica degli sprechi. Luca Rossettini è appunto amministratore delegato e fondatore di The Orbit, quindi avete prodotto dal 2010, mi diceva che siete nati, un motore intelligente per riportare sulla Terra i satelliti quando terminano il loro ciclo vitale. Dove avete sede, come è nata e chi vi ha finanziato? Al momento abbiamo sede anni ha? In Italia. Io ho 40 anni oggi, mm-hmm. Quindi abbiamo sede in Italia, lavoriamo principalmente in provincia di Como, a Lomazzo, abbiamo una sede a Firenze dove siamo nati originariamente, però siamo anche in Portogallo e Stati Uniti. E la società l'ha fondata assieme a chi? Cioè come è nata questa idea? Sì, diciamo, la società è nata da un'idea mia e poi i fondatori eravamo in quattro all'inizio e siamo stati inizialmente finanziati da un fondo di capitale di rischio italiano. Ma lei è ingegnere, immagino, magari aerospaziale, chiedo. Sì, sì, io sono ingegnere aerospaziale di formazione, ho un dottorato di ricerca sempre in propulsione avanzata per lo spazio, però poi sono passato un po' al lato oscuro, diciamo, ho studiato business in California. Lato oscuro, sì, detto da uno che fa aerospazio. Ma è vero che lei ha partecipato anche, si era qualificato per diventare astronauta? Diciamo che ho partecipato al concorso, sono arrivato tra i primi 200, ma non sono arrivato in fondo. Beh, non c'è abbastanza posto. Di Orbit è anche il frutto di un tentativo di riprovarci in maniera diversa. E quanto fatturate e quanti dipendenti avete e quando immaginate di essere a break even, cioè a pareggio? Sì, allora, nel 2016 al momento il fatturato certo per il 2016 è tra di 1.800.000 euro, speriamo che chiaramente aumenti molto di più, le previsioni sono sui 3.5 milioni, 4 milioni, siamo, dicevo, 32 persone totali oggi, con una previsione di arrivare a fine 2016 di circa 48. Ma li ha assunti, contratti a termine, sì, sì. Job Act, come ha fatto? Ma guardi, in realtà da noi la scelta del contratto viene lasciata alla persona che viene assunta, quindi noi fissiamo la spesa a costo aziendale e poi la persona sceglie il contratto che più gli si adatta. Oggi abbiamo quasi tutti assunti a tempo indeterminato proprio tramite il Job Act. Ok, e mi diceva la stima per il 2017? Il break even lo raggiungeremo al 2017. Quindi per la stima del 2016 di fatturato... No, dico, ma per break even quanti soldi vi servono come fatturato? Ci servono circa attorno ai 15 milioni. Ai 15 milioni. Senta, chi vi ha dato una mano come soldi, fondi di private venture capital o che cosa? Sì, noi abbiamo raccolto in totale fino ad oggi circa 5 milioni di euro tra debito, quindi un debito bancario e capitale di rischio. È interessante il debito perché noi ancora siamo un'azienda che non, diciamo, abbiamo raccolto quando ancora non fatturavamo tramite Unicredit, il programma per le startup innovative, quindi diciamo con il fondo di garanzia che ci ha dato una mano. Quindi ma citiamo, quando le banche danno una mano noi siamo sempre dell'idea, comunque si chiami la banca, di citarla. Quindi Unicredit vi ha finanziato a debito e qualche privato è entrato nel frattempo? Abbiamo il resto del capitale, quindi poco più di 4 milioni di euro, è stato finanziato da privati e fondi di capitale di rischio. Siamo ora in trattative per un altro investimento più o meno di pari importo, quindi all'incirca 5 milioni di euro. Allora, in bocca al lupo, come sempre, a lei, ai soci fondatori, ma soprattutto ai 32 dipendenti, nella speranza che diventino 50 e anche di più. Noi sempre... sosteniamo chi in questi anni, non solo chi in questi anni, ma a maggior ragione chi in questi anni, invece che piangersi addosso, si è rimboccato le maniche, in bocca al lupo. Lei, appunto, a tutti i fondatori, grazie a Luca Rossettini, amministratore delegato e fondatore di The Orbit. Crepi lupo, grazie mille, buona serata a tutti. Non vorrei adesso, nel parlare di borsa, Bad Bank, sostituirmi a un programma molto famoso di Rai 3 che si chiama Chi l'ha visto. Però, abbiate pazienza. caro presidente Vegas, dov'è la Consob? Perché io non ho mai visto, forse mi ricordo male io, 15-16 anni sono anche tanti, ma in questi anni un titolo come Monte dei Paschi, con quello che è successo in questi giorni, intanto è passato dal meno 29 al più 40, vabbè, ma all'interno della stessa seduta, praticamente in un'ora e mezza, neanche un'ora, passa dal più 9 al meno 7 al più 3, perché ha chiuso col 2,70%. Non so, io chiedo, è normale? Siamo noi che siamo rimasti troppo verginelle? Non so, è tutto normale questo? Sapendo che parliamo non di un titolo Tizio Caio, ma del Monte dei Paschi di Siena, con quello che è successo. Comunque, Monte dei Paschi ha chiuso in rialzo del 2,70% a 75 centesimi di euro per azione, in una giornata in cui Milano ha guadagnato l'1,60, meglio ha fatto Parigi più 3,10, Francoforte più 2, Londra più 2,20, Dow Jones più 0,80. A casa nostra ha pesato in negativo soprattutto Saipem, dopo l'indicazione sul prezzo dell'aumento del capitale. Il mercato si è mosso di conseguenza, meno 20,5% a 4,20 la chiusura di Saipem. Anche qui ieri la società ha annunciato, ha approvato il consiglio di amministrazione un prezzo di aumento con un maxi sconto del 37%. Le nuove azioni verranno messe a 0,36 euro ciascuna. E poi l'operazione è un'operazione iperdilutiva, cioè vai a diluire molto il tuo investimento negli azionisti. Verranno emessi 9 miliardi 670 milioni di nuove azioni a fronte degli attuali 441 milioni in circolazione. Praticamente ogni azione che uno ha in portafoglio ne riceverà 22 di nuove, e chiaramente il titolo si muove di conseguenza. Poi Banco Popolare meno 5, Ubibanca meno 4,70, Popolare Emilia Romagna meno 1,12%. E Ubibanca va male perché c'è chi scommette che possa essere il principale candidato a comprare il Monte dei Paschi, però io invito alla cautela, abbiamo sentito di tutto in questi mesi. Bene, altri titoli a partire dal lusso, ma non solo, anche il risparmio gestito, Anima Holding più 6,70, Banca Mediolanum più 6,5, Mediaset più 4,70. Qui secondo gli analisti c'entra anche il film di Checco Zalone. Buzzi Unicem più 4,5, Tod's più 3,70, Ferragamo più 3,5, Eni, il petrolio oggi in rafforzamento, meglio, è tornato sopra i $30, $31 al barile, però un rialzo importante del 6%, Eni più 3,30 come Atlantia e ST Microelectronics, il 3% guadagna Prysmian ma anche Azimut e Ferrari, il 2,90 è rialzo di Hughes, Net-a-Porter e Telecom Italia, e poi c'è appunto Monte dei Paschi. Iniziamo a ragionare della bad bank, o meglio del progetto che ha il governo, perché non è più una bad bank, ma sarebbero delle società dove cartolarizzare questi crediti, se ho ben capito. Ci sarà poi martedì l'incontro fondamentale tra il ministro Padoan e il commissario europeo alla concorrenza. Oggi un incontro tecnico per definire i criteri per gestire questi crediti in sofferenza. Prima di tutto, abbiamo ascoltato, abbiamo già anticipato quelle che erano le dichiarazioni di Mario Draghi sull'errata interpretazione della lettera inviata della BCE ai vari paesi. Va bene, andiamo oltre su questo. E anche il ministro Padoan ha detto attenzione, abbiamo sottostimato, si sono sottostimati gli equivoci che quella lettera ha creato. All'inizio sembrava che fosse indirizzata solo alle banche italiane, solo per i crediti inesigibili delle banche italiane, aumentando panico su panico. E poi dicevo, l'incontro di martedì prossimo con il commissario Margrethe Vestager, così il ministro all'economia italiano Piercarlo Padoan a margine del forum di Davos sui colloqui di martedì prossimo a Bruxelles. Siamo sempre stati in stretto contatto tecnico e politico con la Commissione. Una questione di cui stiamo discutendo è l'attivazione di un meccanismo di garanzia che faciliti ulteriormente e acceleri ulteriormente la cessione di sofferenze da parte delle banche che ce l'hanno. C'è da chiarire, visto che stiamo parlando della DGCOM, naturalmente, c'è la questione degli aiuti di Stato, che diciamo, stiamo valutando in queste ore. Oh, sempre sulla scia del programma Chi l'ha visto, diamo qualche aiuto alla Consob. Ci scrivono gli ascoltatori, che sono trader ovviamente. Attenzione, qua scambia la velocità della luce a occhio nudo, non si capisce cosa stia succedendo, titolo impazzito, andate a guardare cosa fa Biancamano o Waste Italia, che sono operatori, ma io adesso non lo so, questo è quello che scrivono, ma la Consum non la faccio io, se no Vegas viene a condurre, io vado a guardare cosa fa Biancamano e Waste Italia, andate a guardare chi sta comprando, non è possibile, o se no sospendetelo e basta, se non siete in grado sospendetelo suo titolo, perché così com'è crea solo allucinazioni, diciamo così. Marco Ferrando, sei d'accordo? Sono troppo duro? D'accordissimo. Noi eravamo appunto mezz'ora fa attaccati anche noi ai PC, ai terminali, per cercare di capire cosa stava succedendo, cercare di capire se c'era un nesso tra lanci di agenzia, altri fattori, come dire, reali che in qualche modo avrebbero potuto innescare queste vendite. Nulla. Quindi veramente tanti punti interrogativi su questa settimana di montagne russe del monte e non solo. Come diceva Vasco Rossi, vorrei trovare un senso a questa storia o a queste vendite e acquisti, ma un senso non ce l'hanno, meglio, in questo caso ce l'hanno. Il problema è che non riusciamo a capire chi ci sta guadagnando, soprattutto, e non si può lasciare un titolo veramente in balia della qualunque, per usare un linguaggio poco economico ma molto chiaro. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche l'economista, editorialista del Sole 24 Ore, Donato Masciandaro. Buonasera, professore. Buonasera. Mi dia una battuta anche sul Monte dei Paschi, non so se ha seguito che ha fatto più 9, meno 7, più 3 nell'arco di un'ora. Il vantaggio qualche volta di essere in aula ad insegnare è che evito il mal di testa che mi sembra che lei e il dottor Ferrante avete avuto in questi... Sì, io ce l'ho avuto anche per gli sprechi della pubblica amministrazione che racconto venerdì, però insomma anche Monte dei Paschi ha contribuito, immagino che viva di pillole antima di testa Vegas in questo momento, perché da qualche parte sta indagando ancora su 2-3 giorni fa, ma io accenderei il famoso faro della Consob anche sul Monte dei Paschi di Siena di oggi. Comunque traffico, e poi vi chiedo un commento sull'ipotesi che sta emergendo non più di bad bank ma di cartolarizzazioni con garanzie di alcune di queste da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Focus Economia. Allora, Marco Ferrando, chiariamo qual è l'ipotesi a questo punto che il governo presenterà martedì. Non è una bad bank, ma ogni banca crea una società a parte dove fare confluire queste sofferenze bancarie, questi crediti che non può più riscuotere, ok? Li cartolarizza, e che cosa vuol dire questo? Vuol dire che finanzia questa operazione in due modi, cioè emettendo dei titoli che sono titoli di due categorie, potrebbero essere anche tre, diciamo due per semplificare, sono uno dei titoli senior, delle obbligazioni che saranno garantiti dallo Stato, una garanzia che sarà acquistata dalle banche. Questo fa sì che questo schema dovrebbe essere, stando a quello che si capisce, conforme alle norme europee sugli aiuti di Stato. Un'altra tranche non garantita, quindi titoli junior, sarà a sua volta messa sul mercato, tendenzialmente finirà nelle mani di fondi di private equity o comunque chi specula su queste operazioni a tassi più alti. La novità è che di fatto, rispetto alla bad bank unica di sistema che doveva comprarsi tutto, sicuramente non conforme agli aiuti di Stato, in questo caso ogni banca se la gioca. Se fa la sua. Ognuno si fa la sua e riesce a spuntare i prezzi migliori, perché il tema, come diciamo da mesi ormai, è un tema di prezzi, perché le banche hanno questi crediti in sofferenza a un valore più alto di quello che verosimilmente si può spuntare sul mercato. Ognuno se la gioca, chi è più bravo, chi ha le sofferenze migliori, sembra un paradosso ma è così, chi le impacchetta meglio di fatto spunterà i prezzi e anche migliori. Chi ha le garanzie migliori su queste sofferenze e anche chi ha le garanzie collaterali, perché una sofferenza magari... l'esempio che facevamo in questi giorni, pensate al finanziamento delle banche italiane di un mutuo per la casa, è chiaro che non parliamo solo di queste sofferenze ma di quelle del mondo delle imprese, però le banche non è che ti finanziassero il 100%, ti finanziavano 70% e in cambio a garanzia avevano l'immobile, il 100% dell'immobile, quindi un po' di margine c'è anche col calo dei prezzi immobiliari, però insomma questo è verrebbe aggirato il rischio di aiuti di Stato, perché chiariamolo bene, lo Stato garantirebbe con la Cassa Depositi e Prestiti che l'interesse offerto alla banca per fare comprare queste obbligazioni non sia enorme, no? Ma perché non sarebbe aiuto di Stato? Perché le banche comprano questa garanzia dallo Stato, un'assicurazione di fatto. Ok, perfetto. Allora, spiegato, spero in maniera chiara, da Marco Ferrando questa evoluzione rispetto alla bad bank iniziale, professor Masciandaro, la convince, è il modo in cui finalmente mettiamo la parola fine e chiudiamo anche le porte alla speculazione sulle sofferenze delle banche italiane? Mi sembra una buona notizia per una ragione credo semplice. È un ennesimo segnale che il sistema bancario italiano non ha un problema di stabilità, c'è un problema di efficienza. Cioè, il fatto che non si parli più di una bad bank e che sia una soluzione condivisa, credo che sia un ennesimo segnale, oltre alle parole di Draghi, che il nostro sistema può avere un problema di efficienza, le banche sono diverse una dall'altra, quindi stiamo cercando una soluzione per rendere più efficiente lo sbattimento di un problema che è sistemico in termini di efficienza, ma non c'è un problema di stabilità del sistema bancario italiano. Quindi, quello che abbiamo detto anche analizzando i dati che ha pubblicato il Sole 24 Ore in questi giorni, è vero che abbiamo 200 miliardi di sofferenze, va anche detto che 87 di questi miliardi non sono ancora entrati nei bilanci rettificati, cioè non sono stati messi correttamente nel bilancio come perdite, però guardate anche le garanzie, le dico in maniera molto, non li voglio chiamare collaterali perché poi non si capisce niente, le garanzie che le banche hanno a fronte di questi crediti che hanno elargito. Sappiamo che le banche italiane, proprio perché avevano il braccino corto, l'abbiamo sempre detto, non facevano come certe banche a leva o che erano piene di strumenti derivati e andavano a finanziare il 100, il 110%, magari hanno sempre voluto le garanzie. Ora non è che queste garanzie siano scomparse, non è che è scomparso il patrimonio immobiliare, per esempio, di questo paese. Professor Masciandaro, lei si attende che a questo punto martedì la Vestager dica ok, via libera e si chiude la partita speculativa sulle banche italiane? Questo ce lo auguriamo tutti, perché circa quasi un anno che questo tema delle sofferenze bancarie italiane è sul tavolo. Mi sembra che la situazione si sia decantata. Il problema degli aiuti di Stato attraverso il passaggio della figura istituzionale, che ormai sta diventando centrale, della Cassa Depositi e Prestiti, sembra risolto. Dobbiamo augurarcelo. Dobbiamo... Lo spero. No, ma è chiaro. Lo spero, nel senso che se dovessimo ragionare in posti normali, tante altre vicende non avrebbero dovuto avere il clamore che hanno avuto. Vabbè, guardi, che io lo dico molto onestamente, se uno mi chiede se c'è un motivo razionale e logico per cui da due settimane, una settimana soprattutto, si è aperto l'attacco alle banche italiane tutte senza fare distinzione, io ancora non l'ho capito, ecco perché parlo di speculazione. Poi magari sono duro di comprendonio e va bene, se non speculazione o messaggi politici o quant'altro. Detto ciò, Marco Ferrando, questo vale complessivamente per il mondo bancario, poi sappiamo che questo creerà grandi discrimini tra banche, insomma, te la faccio ancora più facile, alcune banche non avranno problemi, potrebbero a quel punto venire fuori le banche con i problemi, Monte dei Paschi, non Monte dei Paschi, Cassa dei Risparmi di Genova? Sicuramente sì, perché come sappiamo il problema è di tutti, ma qualcuno ce l'ha più grosso di altri, perché evidentemente le non quantità, è ancora la zanzara, prego. Le quantità no, sono evidentemente diverse. Ieri Draghi ha detto una cosa importante, cioè a breve non saranno richiesti accantonamenti aggiuntivi alle banche, quindi come diceva il professore non c'è un problema di stabilità, ci sarà tempo per gestire questa operazione, ma a maggior ragione con lo strumento che il governo sta per mettere a disposizione si deve fare qualcosa, si deve farlo comunque in tempi ragionevolmente brevi. Poi resta sullo sfondo, perché non è che cada, lo dico anche agli ascoltatori, il tema di chi ha speculato e se si può trattare la borsa italiana come qualunque altra borsa come se fosse sostanzialmente una terra da rapina, uso il termine volutamente, cioè entrando, facendo il bello cattivo tempo, perché tanto nessuno si accorge di quello che stai facendo, no? Gli operatori sono gli operatori che mi stanno scrivendo allucinati e allibiti per quello che hanno visto oggi sul Monte dei Paschi di Siena. Lo dico perché io non opero in borsa, per cui mi fido di quello che scrivono. E dopodiché, voglio dire, basta guardare l'andamento del titolo. Detto ciò, speriamo la prossima settimana intanto di commentare l'accordo martedì e poi di occuparci di un mercato che ragioni in maniera più normale, non in maniera lisergica, per essere buoni. Ringrazio Donato Masciandaro in collegamento con noi e Marco Ferrando qui in studio. Ringrazio come sempre anche Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione al programma anche questa settimana. Vi auguro un buon fine settimana, soprattutto per chi lo dovrà passare lavorando. Non pensate alle banche, non pensate alla banca, tanto sono chiuse la maggior parte del fine settimana. Ci risentiamo lunedì. Radio 24, la passione si sente.